Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata d'eccezione, ricca di novità. Cominceremo infatti con la nostra intervista esclusiva al ministro degli esteri Franco Frattini, al quale abbiamo chiesto cosa il suo dicastero intende fare per censire e fronteggiare il fenomeno dell'esodo tutto italiano di decine di migliaia di giovani professionisti. Ma non finisce qui. È partito da pochi giorni il blog internet di Giovani Talenti, cui siete tutti invitati a contribuire, e ovviamente non mancherà la storia della settimana. Per la prima volta vi porteremo nel mondo dell'emigrazione, definiamola così, sportiva. Anche questo settore purtroppo soffre della fuga dei nostri giovani professionisti. Nello sport molte volte, per via delle politiche di alcune federazioni sportive o per via delle politiche interne ad alcuni club, sembra che quando bisogna assumere dei professionisti, invece di prendere il migliore possibile, si prenda l'amico dell'amico. Tu facevi anche un bel esempio, parlavi di Chelsea, Manchester United, che quando devono insomma assumere dei professionisti mettono l'annuncio sul sito. Sì, qualche mese fa, ad esempio, verso novembre-dicembre, il Chelsea Football Club cercava un preparatore fisico e un fisioterapista e sul loro sito ha messo l'annuncio e chiunque poteva far domanda. Marco Cardinale, 37 anni, è a capo del settore scienza dello sport e della ricerca al Comitato Olimpico Britannico. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora il notiziario. E ve l'abbiamo anticipato in apertura di puntata, oggi Giovani Talenti intervista il ministro degli esteri Franco Frattini. A lui abbiamo posto una serie di domande su quanto sia rilevante per le nostre istituzioni il fenomeno dell'esodo dei giovani professionisti e se esistano o siano allo studio iniziative per contrastarlo. Noi abbiamo in molti casi dei giovani talenti che vanno in altri paesi, acquisiscono dei grandissimi meriti, contribuiscono allo sviluppo di quella società, fanno onore all'Italia e poi ritornano in Italia. Quelli che non tornano, noi li incentiveremo a tornare con una detassazione, con dei crediti fiscali, faremo in modo che i giovani che vogliono tornare siano facilitati, incoraggiati e quindi detassati per i redditi che produrranno di nuovo nel nostro paese. Probabilmente occorrerà anche creare le condizioni affinché tornino, e che per condizioni parliamo ovviamente di salari adeguati, posizioni di profilo alto come le hanno all'estero. Ci sono anche condizioni strutturali che ne frenano il ritorno. Oggi io credo che la crisi globale sta mostrando caratteristiche per cui non si trova l'Eldorado andando all'estero, non si trovano enormi retribuzioni rispetto a quelle italiane. Si tratta di creare in Italia delle condizioni, ad esempio, di meritocrazia effettiva affinché i giovani veramente validi possano tornare con la certezza che se concorreranno avranno un posto importante perché sono bravi. Queste regole di meritocrazia le stiamo introducendo nelle amministrazioni pubbliche. C'è anche la questione del misurare il fenomeno, e a questo proposito 3 anni fa il Ministero degli Esteri aveva avviato il progetto Columbus per raccogliere i profili degli italiani all'estero altamente qualificati. La domanda è: che fine ha fatto questo progetto? Questo progetto Columbus era stato avviato, ha funzionato, in realtà lo avviammo nel lontano 2001 perché si trattava di un finanziamento europeo. Poi con la conclusione del periodo di finanziamento europeo sono evidentemente mancati i fondi necessari. L'esperienza però è importante e può essere ripresa. Io credo che si possa trovare un nuovo finanziamento europeo, ma l'esperienza è stata fatta ed era molto positiva. Ora ovviamente stiamo guardando alla nuova programmazione dei fondi comunitari per avere un progetto Columbus 2. Anche perché un problema, se così possiamo definirlo, se non lo si misura è anche difficile combattere in un certo senso. Lei prende un impegno a misurare questo fenomeno? Ma noi abbiamo già in corso una misurazione. Questa misurazione la fanno le nostre ambasciate, di nostri consolati. Ci sono dei casi che sfuggono però. Però lei saprebbe quantificare in questo momento quanti laureati o neolaureati lasciano l'Italia ogni anno? No, non azzardo delle cifre perché sarebbe un dato parziale e superficiale. Si tratta certamente di un dato che noi vogliamo avere, ma evidentemente il fenomeno dell'impiego privato fa sì che molti, per non dire moltissimi, non danno nessuna informazione. sulla loro destinazione lavorativa. Ministro, voi state avviando un progetto, si chiama Winning Italy, ce ne può parlare? Winning Italy è un progetto per far emergere i modelli italiani. Noi abbiamo la necessità di fare una sorta di scouting, una valorizzazione delle energie nuove, di questi campioni del Made in Italy. Ci sono dei campioni giovani e giovanissimi. Poi Winning Italy premierà dei ritratti, un popolo del merito, di gente che vale, del talento. Questa è l'Italia che vince. Ministro, magari ci risentiamo poi in autunno e ci saprà dire anche su questo avvio di recensimento dei giovani all'estero? Proviamo a fare un nuovo censimento, ma l'importante è avere dati affidabili, sa, questo è importante. Comunque questo è il suo impegno. D'accordo. E prima di dare spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, vi ricordiamo che mancano solo 13 giorni allo sbarco, l'iniziativa della nave dei diritti che trasporterà centinaia di espatriati da Barcellona a Genova. Oggi invece per Job Abroad vi segnaliamo. Un economista alla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea lavorerà nell'unità di politica monetaria, ha richiesto il dottorato, scadenza per il CV 21 giugno, info su bis.org. Una portavoce a Sarajevo presso l'ufficio dell'alto rappresentante europeo in Bosnia e Erzegovina. Richieste almeno 5 anni di esperienza nel settore, scadenza per i CV 15 giugno, info su ohr.int. E infine un preside alla facoltà di economia all'Università di Porto, in Portogallo, necessario essere professore o ricercatore, scadenza per i CV 17 giugno, info su fep.up.pt. La storia di questa settimana di giovani talenti ci porta nuovamente in Gran Bretagna, per la precisione a Londra. Per la prima volta vi raccontiamo il mondo delle professioni legate allo sport. Nome: Marco. Cognome: Cardinale. Età: 37. Città di origine: Bondi, in provincia di Latina. Studi: diploma ISEF a Roma nel 93, corso di perfezionamento all'ISEF di Roma nel 95, Master in Sport Science negli Stati Uniti nel 2007 e PhD in Exercise Physiology and Biomechanics nel 2002 in Ungheria. Anno in cui hai lasciato l'Italia? La prima volta nel 96 per studiare. Per andare dove? Negli Stati Uniti. Perché? Per fare studi avanzati, perché in Italia all'epoca non esistevano lauree specialistiche e dottorati di ricerca in questo settore. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono direttore della scienza dello sport e della ricerca al Comitato Olimpico della Gran Bretagna. Dove? Londra. Tornerai? Molto difficile che tornerò. E l'inno olimpico ci introduce alla storia di questa settimana, che ci trasporta nel cuore dello sport britannico. Approdiamo alla British Olympic Association, l'equivalente del nostro CONI, dove lavora Marco Cardinale, il quale non è un atleta ma un professionista qualificato nel settore delle discipline sportive. Allora Marco, iniziamo a parlare del percorso che ti ha portato in Gran Bretagna. Partiamo per cominciare da una email che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it con una considerazione, devo dire, interessante. Tu scrivi: in Italia le possibilità di lavorare in molti settori sono nulle se non si hanno le conoscenze adatte. Nel mio settore, come in altri, non solo è impossibile far carriera, è proprio impossibile iniziarla. Non è chiaro dove accedere a informazioni sulle posizioni di lavoro disponibili, oltre ad avere trasparenza sulle modalità di accesso a queste posizioni. Il mondo dello sport è una delle tante caste all'italiana dove il merito conta poco e la trasparenza non esiste. Io aggiungo, ma a livello generale, che secondo Union Camere nel mercato del lavoro italiano l'85% delle posizioni restano nascoste. E i giovani di talento che non hanno gli agganci e i contatti giusti che fanno, Marco? Scappano, come ho fatto io, credo. Come ho detto nella mia email, il problema più grande d'Italia è innanzitutto capire dove ci siano queste posizioni, perché non c'è un sistema trasparente di pubblicizzarle o di renderle pubbliche, e poi naturalmente ci sono tutti i vari ostacoli per riuscire ad ottenerle, le posizioni. È un po' una cosa anche nello sport, è una cosa un po' strana, perché nello sport si cerca di vincere e le squadre di calcio, ad esempio, cercano di comprare i calciatori migliori per vincere. Nello sport molte volte, per via delle politiche di alcune federazioni sportive o per via delle politiche interne ad alcuni club, sembra che quando bisogna assumere dei professionisti, invece di prendere il migliore possibile, si prenda l'amico dell'amico. Partiamo dal tuo percorso di studi, Marco, tra diploma ISEF e master in scienza dello sport e anche un dottorato. stato a Budapest. Raccontaci in breve. Quando io ho finito l'ISEF nel 93, volevo continuare a studiare in questo settore e non c'erano possibilità. In Italia non esistevano le lauree specialistiche in scienze motorie, non esistevano i dottorati di ricerca. E diciamo la cultura di questo settore era più per formare gli insegnanti di educazione fisica. L'ISEF poi provò a fare dei corsi di perfezionamento che non potevano essere chiamati laurea, quindi io sono riuscito a frequentare uno di questi corsi di perfezionamento annuali e invitò alcuni docenti stranieri. Io mi appassionai ancora di più alla ricerca. Naturalmente l'unica opportunità per continuare era quella di scappare. Per riuscire a scappare ho ottenuto una borsa di studio dalla US Sports Academy e una sponsorizzazione da un'azienda italiana chiamata Trial. Oltre naturalmente ai risparmi dei lavoretti estivi, sono riuscito quindi ad avere abbastanza fondi per riuscire a fare un master negli Stati Uniti. Tu poi vai a Budapest, è molto interessante questa cosa. Tu per approfondire la conoscenza scientifica dello sport devi finire in Ungheria, nessuno lo penserebbe, perché? In Ungheria è stata una situazione particolare, perché tornato in Italia dopo il master naturalmente avevo provato a lavorare, avevo provato a mettere in pratica le cose che avevo imparato negli Stati Uniti, con delle difficoltà naturalmente, però volevo continuare il mio percorso di studio e volevo arrivare al dottorato di ricerca. Mi erano state offerte delle borse di studio negli Stati Uniti, ma a me piacevano molto alcuni aspetti che erano meglio studiati in Europa. L'Università di Budapest ha una grossa storia dal punto di vista della qualità della ricerca nelle scienze motorie e soprattutto nella fisiologia dell'esercizio e della biomeccanica. E poi però c'è il ritorno in Italia. Tu con la voglia di fare, con la voglia di innovare, torni in Italia e che cosa trovi a livello di accademia e anche a livello privato? Ma in accademia naturalmente trovo il solito problema che trovano tutti quelli che provano a entrare in accademia, nel senso c'erano poche cattedre disponibili, il solito problema con i concorsi, cattedre già assegnate prima ancora che i concorsi iniziassero, quindi c'era un'impossibilità reale di fare il docente universitario e ricercatore full time. Ho fatto il professore a contratto in un paio di università. Nello sport poi il problema era che i consigli federali delle federazioni sportive nazionali vengono eletti ogni ciclo olimpico e sono delle organizzazioni politiche, quindi ho lavorato per alcuni periodi con delle federazioni, poi quando il Consiglio federale cambia il vento politico e di conseguenza vengono mandati via tutti quelli che c'erano prima, indipendentemente dalla qualità. Questo avviene anche in Gran Bretagna? No, questo no, perché la dimostrazione del fatto che non avviene è il fatto che loro hanno un direttore della ricerca che è uno straniero, quindi in tante federazioni lavorano tanti stranieri, la parte politica delle federazioni sportive non incide sulle decisioni tecniche, le decisioni tecniche vengono prese dai tecnici e non dai politici. Tu per questo, anche per questo, lasci a un certo punto l'Italia, ti trasferisci in Scozia, ad Aberdeen, dove ti offrono una cattedra in fisiologia dell'esercizio e scienza dello sport, e da lì poi passerai a Londra e approderai anche alla tua attuale posizione di alto livello presso il Comitato Olimpico Britannico. Ma la mia domanda è: perché decidi di lasciare l'Italia? Quali sono i motivi che ti spingono ad andare via? I motivi sono innanzitutto per avere la possibilità di studiare cose serie, nel senso di studiare cose a un certo livello, per poter fare ricerca e avere anche incarichi di docenza. I concorsi ridicoli in Italia, l'assenza di finanziamenti in questo settore sono grossi problemi. Per poter lavorare ed essere pagato, perché questo è un altro problema che c'è nello sport italiano, nel senso che questa professione non è ben riconosciuta e non ci sono delle protezioni contrattuali, quindi uno rischia di lavorare per delle squadre sportive e poi non essere pagato mai, ed è sempre difficile capire come accedere a questi posti di lavoro. Però Marco, spiegaci come arrivi alla tua posizione attuale presso, diciamo, il Comitato Olimpico Britannico. Tu immagino non avevi nessuna conoscenza, ci sei entrato immagino per selezione, e raccontaci come, e raccontaci anche, perché è interessante capirlo, di cosa ti occupi esattamente, perché tu hai la responsabilità e li hai portati anche alle Olimpiadi di Pechino e Vancouver su centinaia di atleti. Il percorso è stato molto semplice, nel senso che dopo aver ottenuto la posizione ad Aberdeen con un concorso tipico delle università britanniche, dove si apre una posizione, una persona invia il curriculum, è invitata a fare un colloquio e deve presentare dei progetti di ricerca e una strategia per andare avanti. Nel 2005 sono stato invitato dal Comitato Olimpico a fare l'application per una posizione di research manager dell'Istituto di Medicina dello Sport. Ho fatto domanda, sono stato invitato ad un colloquio dove c'erano altri 4 candidati e mi è stato offerto il lavoro nel 2005. Quindi nel 2005 mi sono spostato, iniziando come research manager, e poi sono stato successivamente promosso, prima delle Olimpiadi di Pechino nel 2007, come Head of Sport Science and Research, con tutta la responsabilità degli aspetti di scienza dello sport, di ricerca e di preparazione olimpica. Quindi ho avuto poi la responsabilità della preparazione olimpica per le Olimpiadi di Pechino nel 2008 e per le Olimpiadi di Vancouver nel 2010. E so che qualche soddisfazione a livello di ori, argenti e bronzi ve la siete anche tolta. C'è una considerazione che hai fatto che mi è piaciuta molto. In Italia purtroppo non c'è una cultura che apprezza e premia la qualità. Questo secondo me è molto vero, spiegaci perché. Io dico che è un problema di tutti i settori, ma nel mio settore non si capisce chi siano le persone qualificate e chi siano le persone preparate per riuscire a lavorare bene in questo settore. E l'altra è il fatto che c'è questa idea che comunque è facile trovare qualcuno che questo lavoro lo fa, che costa poco, e quindi se non ti accontenti di quello che ti diamo ne troviamo un altro, che è un po' l'atteggiamento anche di alcune aziende italiane. Ai noi. Come vedi l'Italia dall'estero, Marco? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? È un problema culturale, perché bisogna cambiare la mentalità prima e soprattutto convincere anche i giovani che è possibile ottenere delle posizioni di lavoro importanti senza conoscenze. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marco Cardinale, 37enne direttore della scienza dello sport e della ricerca alla British Olympic Association, l'equivalente del nostro comitato olimpico. Marco è arrivato a questo incarico che comporta la responsabilità su centinaia di atleti al termine di un lungo percorso che l'ha portato a conseguire un master negli Stati Uniti, un dottorato a Budapest, per poi collezionare qualche deludente esperienza in Italia fino all'espatrio definitivo, ancora in ambito universitario ad Aberdeen in Scozia, da lì il salto verso Londra, dove è approdato alla BOA per occuparsi tra le altre cose delle strategie di preparazione della squadra olimpica. Ci raggiunge in linea ora Marcello Faina, direttore del Dipartimento di Scienza dello Sport al CONI. Allora, dottor Faina, esiste secondo lei un problema di fuga dei talenti anche nelle professioni legate allo sport in Italia? A me dà la sensazione in questo periodo che più che una fuga di cervelli ci sia in questo momento. Non sto parlando dell'epoca a quale Marco fa riferimento, che devo dire è profondamente cambiata rispetto ad adesso. A me sembra che siamo in una fase quasi più di globalizzazione. Esistono italiani, Marco non è il solo esempio di sport scientist che sta lavorando all'estero, ce ne sono altri amici comuni che stanno lavorando all'estero, che dall'Italia trovano occasioni di lavoro all'estero, così come in Italia abbiamo tecnici stranieri. Quindi a me sembra che ci sia più una situazione di globalizzazione, e credo che questo sia per certi aspetti anche legato a uno sviluppo culturale, uno sviluppo scientifico degli italiani. Noi abbiamo ormai studenti che fanno i dottorati in Australia, che fanno dottorati in Inghilterra, che fanno dottorati negli Stati Uniti, che fanno dottorati in Spagna, che fanno dottorati in Germania. Non la vedo in maniera esclusiva come legata a una impossibilità in Italia di trovare lavoro, è semplicemente che ci si impone su un mercato molto più ampio. Dopodiché esistono alcuni problemi che sono quelli che Marco ha elencato e sui quali si può discutere uno per uno in qualche modo. Ecco, io le faccio subito due domande allora, dottor Faina. La prima è, giustamente lei dice, siamo in un'epoca di globalizzazione, i talenti devono circolare, però la mia domanda è, parlando di saldo netto, c'è un saldo netto positivo o negativo in Italia? Perché se prendiamo l'area dei ricercatori, ne abbiamo 30.000 che escono e 3.000 che entrano, il saldo è di 10-1 ed è decisamente negativo. Quindi nello sport è così o non è così? E la seconda cosa è invece riguarda il mercato nascosto o aperto e trasparente anche all'interno delle professioni sportive, perché questo è un problema pesante. Mi viene da pensare che se c'è un saldo positivo o negativo il problema sia legato anche alle possibilità che offre il nostro mercato e non esclusivamente al fatto che i migliori non vengono scelti, perché se ci sono posizioni c'è possibilità di lavoro, se qualcuno va all'estero evidentemente perché le posizioni in Italia non ci sono proprio, altrimenti non ci sarebbe un discorso di saldo negativo o positivo. Quindi il problema è se ci sono posizioni in Italia, primo aspetto. Poi il secondo aspetto è quello del quale parlava Marco, cioè la trasparenza dell'offerta. Anche da questo punto di vista a me sembra che vada un po' precisato di che cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando del mondo accademico, universitario, che segue regole e logiche che non sono proprie del mondo strettamente dello sport. Se parlava del mondo dello sport inteso il mondo dello sport privato, sto parlando dei clubs, sto parlando al limite anche dei team, o se parliamo del mondo dello sport tipo istituzionale, che è il mondo del comitato olimpico, delle federazioni. Dottor Faina, ad esempio voi cosa fate, ecco, per andare proprio sul concreto? Voi pubblicizzate ogni posizione e si apre? Innanzitutto bisogna vedere se si aprono le posizioni, che è una cosa già da discutere e da verificare. Io le posso dire con maniera molto tranquilla che noi stiamo seguendo una via di mezzo. Nel momento in cui a me è servita una posizione tra l'altro temporanea, non esistono posizioni di fatto a tempo indeterminato qui da noi. La scelta non è stata pubblicizzata, ma la scelta non è andata verso un amico di un amico, ma è stata fatta una selezione e è stato scelto il migliore, quello che aveva il migliore curriculum vitae. Non è esattamente quello che lamentava Marco, nel senso che non si è scelto l'amico, e nello stesso tempo le posso dire che la linea guida è la scelta del merito e delle capacità. Marco, c'è una domanda che vorresti porre a Marcello Faina? Come vedi la situazione dell'impiego nello sport? Perché in Accademia le cose cambieranno con i nuovi ministri e con il nuovo governo, ma nello sport come vedi il futuro delle carriere in ambito sportivo, istituzionale? Marco, io se non avessi la fede e la fiducia totale nel fatto che il nostro mondo, il mondo dello sport, è un mondo che ha degli ideali, a noi interessa ottenere il miglioramento della prestazione. Il miglioramento della prestazione si ottiene quando si hanno le migliori risorse. Questo significa che se io non credessi questo avrei smesso di lavorare già da tempo. Quindi posso dire a Marco che io ho fiducia nel futuro, ho fiducia che riusciremo a far sì che il mondo dello sport in senso lato apprezzi sempre di più la qualità delle posizioni simili alla sua e di quelle di molti ragazzi che stanno uscendo adesso per corsi di formazione accademica. Ma credo che sia assolutamente una strada che sarà da perseguire, che vorremmo perseguire e che ho fiducia verrà perseguita. Grazie a Marcello Faina, direttore del Dipartimento di Scienza dello Sport al CONI. Un'ultima domanda invece per Marco Cardinale, domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita anche a un espatrio? Innanzitutto la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta perfetta, e io inviterei i giovani comunque a fare un'esperienza all'estero, perché serve a imparare cose diverse, serve ad avere un approccio diverso a quello che si fa. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi restiamo in Gran Bretagna, trasferendoci a Manchester per parlarvi di un'accademia virtuale composta da professori e ricercatori italiani espatriati, i quali continuano a seguire l'attualità accademica nel bel paese. Si chiama Via Academy, a giovani talenti Mauro Degli Esposti, uno dei fondatori, professore alla Manchester University. Costituiamo un'accademia virtuale che, contrariamente all'accademia italiana, è perfettamente piramidale. Pochi professori, molti lecturer come me, tanti di più postdocs e gente più giovane, fino a un numero notevole di studenti di dottorato. Originariamente è nata a Manchester, ma nel Manchester sono tre università, la nostra è la più grande, è il nucleo più principale del gruppo originale della Via Academy, è l'Università di Manchester, ma c'è l'altra università che si chiama Manchester Metropolitan, poi c'è l'altra università vicino, la Salford, e poi varie università, diciamo una ventina di università. Quanti iscritti a Via Academy e soprattutto che ruolo ricoprono anche, diciamo, i giovani ricercatori? Circa 430, fino anche a Londra, eccetera. Una statistica è l'età media fra i 30 e i 35 anni. La maggior parte dei trentenni italiani o stanno facendo il postdoc o lo sono anche come professionisti, perché non siamo soltanto accademici, sono i professionisti che lavorano in varie industrie, ingegneri, architetti, eccetera. Cosa li spinge a venire in Inghilterra, soprattutto per lavorare nell'ambito accademico? Ma innanzitutto le competenze che hanno accumulato in Italia, che spesso possono andare molto bene in vari campi. Poi la questione è anche, spesso può anche nascere per caso. Ma c'è una maggiore facilità ad affermarsi qui? Se uno è bravo e diventa molto competente nel suo ramo, viene apprezzato e assolutamente ha la possibilità di diventare un accademico o diventare un principal investigator. Via Academy ha un sito internet e ha anche diverse attività. Allora, quali sono un po' le attività di Via Academy e quali sono gli scopi che si prefigge? La mission è molto semplice, si rifà all'articolo 9 della Costituzione italiana, che promuove la cultura e la divulgazione della scienza in generale. L'altro aspetto è quello di cercare di influenzare quelle che possono essere le evoluzioni, e in questo momento il tentativo di riforma del sistema universitario italiano, in cui siamo ancora molto legati. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.via-academy.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. Oggi edizione straordinaria anche per Intern Active, ospitiamo infatti un botta e risposta tra Nova, il network professionale che riunisce i nostri studenti di MBA nelle migliori business schools americane, e i due deputati ideatori di Controesodo, il DDL per il ritorno dei giovani professionisti espatriati. Oggetto della discussione, l'inclusione degli studenti di master all'estero tra i beneficiari della DDL. La lettera di Nova. Onorevole Guglielmo Vaccaro, onorevole Alessia Mosca, questo disegno di legge di grande importanza per la comunità di italiani all'estero rischia, nella sua attuale formulazione, di escludere gli studenti MBA e in generale dei programmi di livello master. Fra tutti gli studenti italiani che completano il programma MBA, i sondaggi Nova mostrano come storicamente solo uno su tre rientri in Italia. Il DDL afferma come requisito per gli studenti di aver svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale paese e dell'Italia negli ultimi 24 mesi più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Il fatto è che per la grande maggioranza dei programmi di livello master nei paesi anglosassoni, uno studente mantiene tale status per soli 16-22 mesi. Secondo l'attuale formulazione, la legge sarebbe applicabile unicamente a studenti di bachelor, di dottorato o a studenti in nazioni che prevedono una diversa durata dei master. Verrebbero esclusi anche studenti di programmi di altissimo calibro, quali l'INSEAD in Francia, l'IMD in Svizzera, l'IESE in Spagna e la London Business School nel Regno Unito. A nostro avviso, la durata degli studi nella DDL sarebbe meglio definita in termini di crediti accademici acquisiti, ovvero di numero di anni accademici frequentati con profitto. Questa è la lettera firmata da Filippo Scognamigli. Questa è la risposta dei deputati Mosca e Vaccaro. Gentile dottor Scognamiglio, il suo giusto appunto riguardante la durata inferiore rispetto a quella prescritta dal dettato normativo dei programmi di livello master nei paesi anglosassoni sarà opportunamente da noi palesato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è deputato ad emanare l'apposito decreto al fine di individuare e di specificare le categorie dei soggetti interessati dalla norma. È infatti conforme alla stessa ratio del disegno di legge garantire al nostro paese il rientro dell'eccellenza degli studenti italiani che abbiano completato all'estero e nei tempi prescritti un programma di studi di così grande prestigio. Rispondiamo al secondo quesito. Gli studenti italiani che abbiano frequentato corsi all'estero e che abbiano optato per registrarsi all'anagrafe italiani residenti all'estero avranno diritto, ai sensi della presente proposta di legge, ad accedere ai previsti benefici fiscali. Così i deputati Mosca e Vaccaro. Vi ricordiamo anche che è ancora aperta la discussione di Giovani Talenti lanciata la scorsa settimana. Il mondo del lavoro italiano è, secondo voi, pronto e reattivo nell'accogliere giovani dal background formativo e lavorativo internazionale, oppure li considera come corpi estranei, obbligandoli a restare dove sono in un perenne esilio? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E novità assoluta da questa settimana, potete anche interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Vi ospiteremo i commenti dei protagonisti di Giovani Talenti, dei decision makers e ovviamente le vostre lettere. Scrivete a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.